Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi, il quale, essendosi concluso l'iter parlamentare di esame e di approvazione della legge di bilancio, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni a partire da domani, giovedì 8 dicembre, alle ore 18. Così ha parlato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Ugo Zampetti, questa era la sua voce, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, dopo che Renzi, intorno alle, diciamo, circa un'ora fa, insomma, ha rimesso il suo mandato, come aveva già annunciato, nelle mani di Mattarella, è salito al Colle per questo e quindi si è aperta ufficialmente la crisi di governo. A questo punto cosa succede? Da domani, avete sentito, iniziano le consultazioni per capire da parte del Presidente della Repubblica se è possibile, insomma, dar vita a un nuovo governo, forse anche un Renzi bis, o si sceglierà un altro candidato. Che cosa succederà? Ne parleremo questa sera. Cosa succederà nelle prossime ore? Oggi è stata una giornata molto piena di politica, perché oltre a questo poi c'era stata la direzione PD nel pomeriggio, dove Renzi in realtà non ha detto cose sconvolgenti, ha semplicemente riconfermato le sue intenzioni. Ha detto, non si è dimesso da segretario del partito, ha rilanciato sul fatto che, oltre ad essere orgoglioso di quello che ha fatto nei suoi 1000 giorni di governo, ha detto che ci sarà un governo, diciamo così, di larghe intese, con tutti insieme, di responsabilità, oppure si andrà subito al voto. In più oggi è stata votata la fiducia alla manovra, insomma un sacco di cose di politica, anche se la politica in realtà ha disertato poi stasera la prima della scala. Anche di questo parleremo, perché naturalmente con la crisi di governo, insomma, Mattarella e gli altri esponenti del governo erano impegnati in tutt'altri problemi. Per le vostre considerazioni e osservazioni, lo sapete come sempre qui Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi non perdete un solo istante stasera di Effetto Notte, anche se state viaggiando, anzi soprattutto state viaggiando, e cominciamo con il riassunto della giornata. Crisi di governo, il Presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi ha rimesso il suo mandato nelle mani di Mattarella, rimane per gli affari correnti, da domani le consultazioni. La direzione PD, sono orgoglioso del lavoro fatto, ha detto Renzi, ha rilanciato, o governo con tutti i partiti o voto dopo la consulta. Grillo attacca, al voto subito con l'Italia, come Salvini minaccia le proteste di piazza. Manovra via libera del Senato alla fiducia sulla legge di bilancio. Indonesia, un nuovo terremoto devasta l'isola di Sumatra, 100 le vittime, il sisma è legato a quello del 2004 che fece 100.000 morti. Stati Uniti e Donald Trump, la persona dell'anno secondo Time, un grande onore, commenta lui. Siria, secondo la Russia le truppe fedeli al regime controllano ormai il 70% di Aleppo Est. Il cadavere della donna in una cava, avviso di garanzia al compagno, la quarantenne è stata uccisa con un colpo di pistola al capo. La prima della scala, per la crisi di governo la politica diserta, l'apertura della stagione con Madama Butterfly. Ponte dell'Immacolata, quasi 7 milioni di italiani in viaggio, in molti sulle piste da sci. E per lo sport, per la Champions League, la Juventus sfida a Torino la Dinamo Zagabria, tensioni fuori dallo stadio e ultra croati respinti con gli idranti. E per il nuoto, nuova impresa per Federica Pellegrini, oro sui 200 nei mondiali a vasca corta. Partiamo quindi dalla formalizzazione, appunto, come dicevo, delle dimissioni di Matteo Renzi da Presidente del Consiglio. In serata è salito al Colle, dopo un colloquio con Mattarella ha rimesso il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica e così si è aperta ufficialmente la crisi di governo. Il Presidente Mattarella si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Si dimette poco prima delle 20 Matteo Renzi, dopo che il Senato ha approvato la legge di bilancio e dopo aver affrontato la direzione PD. La crisi è ufficialmente aperta, così il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, dottor Matteo Renzi, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere. Il Capo dello Stato procederà alle consultazioni a partire da domani, alle ore 18. Il governo rimane in carica come da prassi per gli affari correnti, mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella affronta la prima crisi di governo con le consultazioni a partire da domani. Ascolterà il presidente emerito Giorgio Napolitano e i presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso. Il premier lascia, pronto a cedere il campanello al successore, anche perché per andare avanti, per fare la legge elettorale, non ci può essere solo il PD. Se invece vogliono un nuovo governo che affronti la legge elettorale, ma anche gli appuntamenti internazionali rilevanti che abbiamo, il PD è consapevole della propria responsabilità. Non può essere il solo, perché abbiamo già pagato il prezzo. E l'ex premier, ora solo segretario, manderà una delegazione al Quirinale del PD senza di lui. Dalla minoranza Gianni Cuperlo chiede però un governo per la legge elettorale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le consultazioni, quindi dicevamo, inizieranno domani alle 18 col Presidente del Senato Pietro Grasso, poi ci sarà la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Presidente emerito Giorgio Napolitano. Le consultazioni poi saranno chiuse sabato con Forza Italia, Movimento 5 Stelle e PD. E mentre Renzi si dimette, il PD prova a trovare una linea unitaria, anche le opposizioni naturalmente si organizzano in vista delle prossime decisive settimane. Il Movimento 5 Stelle preme per le elezioni e accelera sulla legge elettorale. Beppe Grillo, dal suo blog, annuncia che i pentastellati hanno presentato alla Camera una proposta di legge per estendere l'Italicum anche al Senato. In questo modo, sottolineano i gruppi parlamentari, il giorno dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sull'Italicum, ossia il 24 gennaio, ci sarà una legge elettorale per entrambi i rami del Parlamento. Forza Italia, con Renato Brunetta, boccia l'idea di un governo allargato. Tocca al PD, dice, dare un esecutivo al Paese perché ha la maggioranza. Noi siamo all'opposizione, rimarremo all'opposizione, nessun governicchio, nessun governo tecnico, se vogliono fare un governo istituzionale lo facciano. Il leader della Lega, Matteo Salvini, guarda alle elezioni. È inconcepibile, dice, rinviare il voto e invita i grillini ad alzare il telefono se davvero ci fosse l'intenzione di un'ipotesi di alleanza con il Carroccio. Sinistra Italiana, poi, sollecita una legge elettorale che superi l'Italicum bocciato dal voto popolare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi è arrivata anche la fiducia del Senato alla manovra senza modifiche. Su questo, su tutta la frenetica giornata politica, poi torneremo tra poco nel corso di Effetto Notte. La politica invece, vi dicevo, è stata assente alla prima della Scala a Milano, in corso stasera proprio per le fibrillazioni politiche. Sul palco Madama Butterfly, diretta da Riccardo Sciagli. Poi ci faremo raccontare dalla nostra inviata. Ora le notizie dall'estero. Indonesia, forte terremoto nell'isola di Sumatra. Si temono centinaia di morti. Un terremoto di magnitudo 6.5 nella stessa zona dello tsunami del 2004. Almeno 100 morti, dicevo, che potrebbero però diventare molti di più. 150.000 le persone coinvolte, in fuga sulle colline, centinaia di edifici distrutti o danneggiati. La provincia indonesiana di Aceh ha rivissuto l'incubo di un devastante terremoto 12 anni dopo lo tsunami, che si portò via oltre 100.000 persone soltanto in questa zona. E in Pakistan, l'aviazione civile pakistana ha confermato che non ci sono sopravvissuti nel volo del Pakistan International Airlines, schiantatosi in fiamme oggi sulle montagne, lo riferiscono i media locali. Il velivolo trasportava 42 passeggeri, 5 membri dell'equipaggio e un ingegnere di terra. Finora sono stati recuperati 36 corpi. In Siria prosegue l'avanzata ad Aleppo delle truppe fedeli al regime e i ribelli sono in ritirata. Tutta la distanza tra Russia e Stati Uniti è misurata dal tenore degli annunci. Mosca e Damasco celebrano il controllo esteso su Aleppo Est, per anni ridotta dell'opposizione. È una vittoria storica, urla Damasco, che impedirà l'intervento straniero e cambierà il processo politico, mentre per la Casa Bianca è solo una nuova occasione per condannare Assad e il suo patrono russo, accusati di condurre una guerra sporca e di ostacolare l'arrivo degli aiuti umanitari. Parole che non impediscono a Mosca di spingere sull'acceleratore della guerra, che a 14 mesi dall'avvio della più grande operazione internazionale dai tempi dell'Afghanistan, Putin ora combatte apertamente anche sul fronte interno, forte di un'opinione pubblica allegnata, disposta a incassare il costo umano dei caduti russi, fino a rivendicare apertamente l'opportunità che la guerra offre di ammodernare l'arsenale con armi più recenti e rilanciarne l'esportazione. Una sfida in cui Aleppo è una tappa sanguinosa ma non conclusiva sulla via di un Medio Oriente che dall'Iraq alla Libia via Siria appare sempre più una terra di sangue e conquista. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E la liberazione di Sirte da parte delle forze che fanno capo al Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale segna una svolta decisiva nella lotta all'ISIS e una nuova tappa nel difficile percorso di progressiva stabilizzazione della Libia, così scrive la Farnesina, Ministero degli Esteri italiano. Parliamo adesso di Stati Uniti, di Trump. Per il prestigioso settimanale Time, la persona dell'anno è proprio lui, il presidente americano eletto Donald Trump. Time Magazine ha fatto quello che non avrebbe mai immaginato di fare, ha scelto Donald Trump per la copertina di persona dell'anno di questo storico settimanale. Forse i settimanali valgono meno, ma Time mantiene comunque il suo fascino e la scelta è giusta, perché Trump ha portato una rivoluzione politica in America, ha spiazzato democratici, repubblicani e ora sta spiazzando analisti, osservatori, riceve uomini d'affari, chiude un accordo e lo annuncia su Twitter, per esempio con SoftBank. La SoftBank giapponese ha annunciato di investire 50 miliardi di dollari in America creando 50.000 posti di lavoro. Ecco, l'annuncio però l'ha dato lui di persona. Nessuno sa davvero cosa aspettarsi dalla sua amministrazione. Dunque la foto della copertina è simbolica, perché Trump è seduto di spalle in poltrona e voltato con un profilo a tre quarti, sguardo molto serio, quasi arcigno, come dire: non ci credevate? Eccomi qua, aspettatevi di tutto. In effetti il cambiamento è storico, non credo che un ritratto potesse essere più azzeccato. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E quindi Time ha scelto Trump e Trump avrebbe scelto il nuovo ministro degli interni a guidare l'Homeland Security, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, sarà il generale dei Marine John Kelly. Ora di nuovo in Italia con la cronaca, la donna uccisa trovata in una cava, precedenti penali per condotte violente. Mario Marcone, l'ex compagno di Gabriella Fabiano, la 43enne uccisa con un colpo di pistola alla testa, è ritrovata senza vita lunedì pomeriggio in una cava a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano. Il 42enne che vive a Pioltello, sempre vicino Milano, è un operatore ecologico e al momento l'unico indagato nell'inchiesta coordinata dal PM di Milano. Parliamo di questa valanga in Piemonte, di un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il bilancio dell'incidente di montagna avvenuto oggi pomeriggio in Val Troncea, sopra il Pragelato. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di tre sciatori fuori pista che avrebbero provocato la slavina dopo essere finiti in un dirupo. Parliamo invece di cose positive. Il Ponte dell'Immacolata, sono quasi 7 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio, il 12,9% in più rispetto all'anno scorso. Secondo Federalberghi la stragrande maggioranza resterà in Italia scegliendo soprattutto le località d'arte o le mete montane. In crescita anche il giro d'affari, pari a 2 miliardi. Il Ponte dell'Immacolata coincide anche con l'apertura della stagione sciistica. Quasi tutte le località sono pronte. Allora Dario Ceccarelli ha intervistato Thomas Musner, direttore generale di Dolomiti Supersky. Sulle Dolomiti è tutto pronto, noi siamo partiti già da un mesetto a questa parte, i primi impianti hanno già avuto la possibilità di aprire le proprie porte a questa stagione invernale, sicuramente con il ponte di Sant'Ambrogio in arrivo adesso a ridosso di questi giorni saremo più pronti che mai, piste perfettamente innevate, i principali collegamenti sono in funzione, parliamo di circa 300 impianti che sono già pienamente operativi e oltre 500 chilometri di piste di puro divertimento, quindi assolutamente pronti. Le previsioni come sono sia per questo ponte che anche per Natale? Le previsioni dal punto di vista meteorologico sono molto propizie, abbiamo delle temperature fredde, basse, in modo da consentire la preparazione delle piste con l'innevamento programmato, sono previste delle bellissime giornate di sole, quindi sicuramente le condizioni migliori per sciare sulle nostre piste. E buon per chi potrà. Adesso chiudiamo con lo sport, con il calcio. Tensione all'arrivo dei tifosi della Dinamo Zagabria, un migliaio in tutto allo Juventus Stadium. Un gruppo ha cercato di forzare il cordone di polizia, costringendo le forze dell'ordine a respingerli con l'uso di idranti. I bianconeri questa sera devono vincere per garantirsi il primato nel girone. Per il nuoto invece nuova impresa per Federica Pellegrini, oro sui 200 nei mondiali a vasca corta. Serve volare in Canada, lontano da Rio e dai cinque cerchi di cui pareva portare il peso sulle spalle insieme alla bandiera italiana. Così Federica Pellegrini ritrova medaglie, sorrisi e la certezza di essere una campionessa ancora viva. La vasca è quella corta, il titolo mondiale che le mancava, i 200 stile libero, la sua distanza, il tocco per prima con la leggerezza di una farfalla e la forza di una fenice come quella che porta tatuata. Una leggenda che sfida l'orologio del tempo, che dice che a 28 anni non è facile per una nuotatrice trovare la forza di guardare nuovi orizzonti da raggiungere, specie dopo la scottatura come quella olimpica. La giornata delle resurrezioni di Federica non finisce lì, anzi prosegue con la staffetta 4% che è d'argento per la prima volta nella storia. Adesso, finalmente felice di nuovo, penserà a divertirsi. Lo farò nei 100 stile. Questa è una promessa. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e con questo il riassunto della giornata è compiuto. Ci sarà la viabilità tra pochissimo per aggiornare chi sta viaggiando e poi cominciamo allora ad approfondire vari argomenti, naturalmente a partire dalla politica, dalla crisi di governo che ormai è aperta con le dimissioni di Renzi. Qualcuno già sta scrivendo i propri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, che è il numero per gli sms e WhatsApp. Che cosa succederà ora? Cosa si può auspicare? Giorgio dice, vista la situazione anche interna al PD, riforma della legge elettorale, anche se verrà orribile comunque, e poi voto, scrive Giorgio. Francesco invece dice, un governo semitecnico con Padoan o figura simile è la soluzione più realistica e opportuna, mentre un Renzi bis sarebbe percepito da troppi alla stregua di una beffa. Bene, continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo un momento. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, naturalmente avete sentito, per rimanere sempre aggiornati a quest'ora, il riassunto della giornata nella prima parte. Ora invece passiamo ai temi, ovviamente la crisi di governo è quello che man mano succederà, sta succedendo, è successo oggi, sta succedendo nelle prossime ore. I vostri messaggi, le vostre interazioni qui con Effetto Note sulla pagina Facebook del programma oppure al 349-238-6666. Elena per esempio scrive, Renzi se vuole essere lo statista che pensa di essere dovrebbe accettare il nuovo incarico e provare a rimediare al disastro da lui stesso provocato, ma non penso proprio, infantile e arrogante, se ne andrà imbronciato. Spero di avere torto, anche se proprio lui alla direzione del PD ha detto, chi ha la fortuna di essere segretario del PD, di essere presidente del Consiglio, non ha il diritto di avere il broncio. Ma questo, diciamo, lo ha detto così in pubblico, bisogna vedere poi nel privato, ma noi pensiamo a quello che è oggettivo. Allora, vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, prima di tutto quali sono le notizie più importanti. Renzi si è dimesso, il voto, dice, o il voto dopo la consulta, cioè la pronuncia della consulta sull'Italicum, o il governo di tutti. Queste sono le opzioni di cui aveva già parlato ieri. La crisi dunque è aperta, le consultazioni del presidente Mattarella partono da domani e si chiuderanno sabato. Grillo intanto, per quanto riguarda le opposizioni, attacca e dice, ci vogliono demonizzare, votiamo con l'Italicum. Salvini, ecco, il Movimento 5 Stelle dice, o andiamo alle urne subito o scendiamo in piazza. Nel frattempo, come in questi giorni, la borsa tiene bene, Piazza Affari chiude in forte rialzo a più 2,1%, trascinata dalla corsa dei titoli bancari, con in testa MPS e Unicredit, uguale performance positiva delle altre borse europee. E poi la manovra, la legge di bilancio è legge, oggi c'è stata la fiducia da parte del Senato, ci sono varie misure, dal sisma ai bonus ai premi produttività eccetera, poi ne parleremo. Il Time, la rivista americana Time, che dedica la copertina a Donald Trump, persona dell'anno, lui dice è un onore. Poi in Indonesia un nuovo terremoto devasta l'isola di Sumatra, 100 le vittime, ma potrebbero essere purtroppo molte di più. E poi il femminicidio del cadavere di una donna in una cava vicino Milano, avviso di garanzia all'ex compagno, la quarantenne sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. E poi sulla scala, la prima della scala questa sera, l'ombra della crisi di governo su Madame Butterfly, infatti diserta la politica. E io con il sorriso più largo e più grato salgo tra qualche istante al Colle a rassegnare formalmente le dimissioni. Questo ha detto Renzi oggi, subito dopo la fine praticamente della direzione PD nel pomeriggio, poi si è salito al Colle e sapete un po' ormai qual è l'esito, le dimissioni formalizzate, quindi l'apertura ufficiale della crisi di governo. Quindi questa è, diciamo, la giornata, una parte della giornata estremamente frenetica oggi della giornata politica, perché poi c'è stato anche il via libera del Senato alla manovra, ha votato la fiducia, e poi appunto l'attesa direzione del PD e poi la salita al colle di Renzi. Direzione del PD che in realtà è stata limitata a delle comunicazioni di Renzi al partito, ha detto sono orgoglioso di quello che è stato fatto fin qui, il PD non ha paura di andare al voto, una direzione senza dibattito, senza confronto, però infatti qualcuno insomma ha protestato, per esempio Tocci ha detto perché non facciamo un dibattito, non c'è un confronto, parla solo lui. Poi il presidente del PD Orfini ha chiarito, ha detto solo rimandato la discussione, la potremo fare con la contezza di tutte le posizioni, anche degli altri partiti in campo. Vogliamo sentire Renzi cosa ha detto fra i vari passaggi? C'è naturalmente un passaggio interno da fare che credo sarà duro, e sarà molto duro nella chiarezza che deve contraddistinguere un grande partito democratico, ma che a mio giudizio dovrà arrivare dopo aver affrontato la questione della crisi di governo che si sta per aprire formalmente. Se invece vogliono un nuovo governo che affronti la legge elettorale, ma anche gli appuntamenti internazionali rilevanti che abbiamo in questo 2017, il PD è consapevole della propria responsabilità. Non può essere il solo, perché abbiamo già pagato il prezzo in un tempo non troppo lontano della solitudine della responsabilità, e dunque anche gli altri partiti devono caricarsi il peso, almeno in parte. Propongo che ci sia una delegazione al Quirinale composta da uno dei due vice segretari, e ringrazio Deborah per aver indicato Lorenzo, dal presidente del partito e dai due capigruppo. Propongo che la direzione sia convocata in modo permanente per consentire alla delegazione di venire a riferire ove vi sia qualche elemento di novità, o meglio, quando vi saranno gli elementi di novità, e perché a quel punto si possa discutere in modo democratico e chiaro del percorso da scegliere. Quindi Renzi ha rimandato questo confronto interno al PD, però intanto che cosa succede? Da domani Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, bentornata. Buonasera a tutti. Da domani partono le consultazioni, e quali sono le ipotesi in campo? Renzi, come hai sentito, ha rilanciato questo bivio, no? Nel senso, decidono tutti i partiti di caricarsi della responsabilità di formare un governo finché si arriva non so a quale tempi, probabilmente alla consulta in ogni caso, che si pronuncia il 24 gennaio, oppure si va direttamente a elezioni. In ogni caso serve, no, un periodo di transizione, un governo che porti quantomeno un pochino oltre il 24 gennaio, perché poi ci sono i tempi tecnici dello scioglimento delle Camere prima di andare a elezioni. Allora, intanto andiamo per gradi. Sì. Il motivo per cui non si è discusso oggi la direzione del PD è perché si vuole che si concludano almeno questo primo giro di consultazioni, perché è evidente che questa non è una crisi breve che si risolverà in questo giro di consultazioni che si conclude sabato. Ma nella giornata di sabato ci saranno le maggiori forze politiche al Quirinale, e quindi è l'ultima forza politica, il PD, che verrà ascoltato da Mattarella, e quindi è probabile che alla fine di queste consultazioni emergerà che nessuna delle forze dell'opposizione è disponibile a un governo istituzionale, cioè a un governo che tenga insieme l'attuale maggioranza e le opposizioni, e come chiesto dal PD e come chiesto dal Premier dimissionario. Che cosa significa questo? Questo passaggio significa che poi, una volta esaurita questa fase, si dovrà decidere qual è la posizione che si prende sul dopo. Allora, Renzi per il momento, perché tra le varie ipotesi c'è chi ha parlato di un possibile reincarico, che insomma sì, Renzi bis, no? E di un Renzi bis che stia giocando. In realtà, da quello che a noi risulta, Renzi non ci pensa proprio a un Renzi bis, nel senso che quello che emerge in queste ore è che in sostanza ci sono solo due leader che vogliono andare al voto: uno è Renzi e l'altro è Grillo. Anche Salvini, no? Anche che se no va in piazza. Anche Salvini, sì. Però diciamo che al di là delle dichiarazioni poi ufficiali che vengono fatte in queste ore, poi ogni partito deve scontare delle difficoltà al suo interno, ma soprattutto anche con gli alleati. In questo senso mi riferisco anche a Salvini, perché comunque sappiamo che il centrodestra non ha un leader, e quindi il problema delle primarie, Berlusconi che non vuole le primarie, insomma hanno dei problemi anche loro, mentre Grillo, diciamo, anche Grillo ha i suoi problemi, però come dire, poi lì si agisce un po' d'autorità e in qualche modo poi la strada viene segnata da Grillo stesso e da Casaleggio, e quindi insomma tutto questo per dire che cosa? Per dire appunto che questa sarà una crisi complicata, perché quando verrà fuori, come sembra già evidente oggi in realtà, che questo percorso di un governo di larghissime intese è poco praticabile. No, è poco praticabile. Barbara, allora ti interrompo, perdonami, per sentire proprio conferma di questo da Brunetta di Forza Italia. Al 100% ti confermo a tutti gli elettori, e Forza Italia non darà nessuna fiducia a un governo in questa legislatura. Noi siamo all'opposizione, continueremo ad essere all'opposizione, non c'è alcun problema da questo punto di vista. Quindi, hai sentito, poco praticabile questa strada, e quindi? E quindi bisognerà capire che cosa succede soprattutto dentro il Partito Democratico, nel senso che Renzi corre il rischio di fare la fine di Letta, ovvero che viene sostituito da un altro premier e che, diciamo, questa maggioranza, sfiduciata di fatto dal voto del referendario, va avanti. Allora, il punto è, va avanti. Nelle tesi dei vari big del Partito Democratico, di chi dice comunque il senso di responsabilità, bisogna dare comunque il governo al paese, sono in tanti a esprimersi in questo senso, c'è l'idea che comunque una volta che arriva la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum, si appronta rapidamente una legge elettorale per andare subito al voto. Ipotesi che Renzi stesso ritiene poco praticabile. Cioè il sospetto è che poi in realtà una volta che si fa un governo, difficilmente questo governo si scioglie, ma anche perché c'è un motivo anche un po' prosaico. Stiamo parlando delle pensioni che devono maturare i parlamentari fino a ottobre 2017. Pensate che in questo Parlamento, su 945 parlamentari tra Camera e Senato, circa 600 sono nuovi parlamentari, sono la loro prima esperienza. E quindi devono aspettare ottobre 2017. Metà settembre. Quindi al di là delle dichiarazioni, in questo senso dico, poi c'è una resistenza proprio, come dire, a suicidarsi, e quindi una volta che è in carica un nuovo governo, insomma sui tempi di durata di questo governo poi nessuno metterebbe la mano sul fuoco sul fatto che appunto questo governo sia breve. Allo stesso tempo però c'è la difficoltà effettiva, oggettiva della legge elettorale. Anche qui però è una fino a un certo punto in realtà, secondo me, c'è, perché noi sappiamo che la Corte Costituzionale, quando si esprime sulle leggi elettorali, e si è visto già con il Porcellum, fa delle sentenze che si chiamano autoapplicative. Che significa? Significa che la Corte, consapevole del fatto che non si può lasciare un paese senza una legge elettorale, comunque dà una sentenza che in qualche modo consente lo stesso di poter essere applicata, e quindi una legge elettorale. Vi ricordate quando si parlava del consultellum, ad esempio, no? Ecco. Allora, sicuramente la Corte Costituzionale farà la stessa cosa in questa udienza del 24 gennaio. La risposta anche di Forza Italia, che non preme, parla di ritorno al voto, ma in realtà non è che ha tutta questa fretta di tornare a votare, anche di Forza Italia, dicevo, è quella che non ci sarebbe omogeneità tra il sistema che esce fuori da questa sentenza della Corte e il Senato della Repubblica. In realtà uscirebbero fuori due sistemi proporzionali con soglie diverse per entrare in Parlamento, ma insomma due proporzionali ci sarebbero, cioè se c'è la volontà di andare al voto, a parte che basterebbe due articoli a quel punto per rendere omogenee, se c'è la volontà al voto ci si va. Ci si può. Barbara, a proposito di voler andare al voto, a parte questo ascoltatore Nicola tra i tanti che scrivono messaggi, che dice: Renzi non piace a molti, ma quali altri leader guideranno l'Italia? Il populista Salvini, l'inesperto Di Maio, facciamo tornare i dinosauri? Però sentiamo allora Fico del Movimento 5 Stelle. Vogliamo andare al voto, questo è chiaro ed è chiaro a tutti, questa è la linea del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo per forza di cose, e non c'è alternativa a questo, aspettare la Corte Costituzionale il 24 gennaio e si esprimerà il 24 gennaio. Nel momento in cui si esprime la Corte Costituzionale vedremo i rilievi che avrà fatto all'Italicum e saranno recepiti quelli dalla Camera dei Deputati. Non ci possono essere uomini soli al comando in queste società occidentali, portano solo a una banalizzazione della politica, figurine che sono in televisione, tu sei sul divano e puoi scendere e leggere tra uno slogan e un altro. Questo è il mondo che deve finire. Quindi io dico che non esiste un Presidente del Consiglio, esiste un movimento, esiste il programma di governo e secondo me tutti dovrebbero andare in questa direzione, molto meno della persona forte che non può sbagliare. Invece è giusto che noi oggi abbiamo i dubbi, abbiamo le incertezze, abbiamo delle strade diverse da seguire, perché solo la comunità insieme può decidere per se stessa, mai uno per tutti. Barbara, in chiusura, perché tanto avremo modo di parlarne per molto e molto tempo, come detto la crisi sarà lunga, anche questo aspetto, no, dell'uomo forte, dell'uomo che fa so tutto mi, fa so mi, eccetera eccetera, no, ha un po' forse stancato. Si è parlato molto del carattere di Renzi in questi giorni nei vari dibattiti politici, dell'arroganza, dell'antipatia. Lui stesso ha detto: non credevo che mi odiassero tanto. Si è un po' consumata questa immagine dell'uomo forte, dell'uomo che non deve chiedere. Quello che è successo negli Stati Uniti non mi sembra, infatti, sinceramente. Infatti, lì anzi c'era la possibilità di votare una donna e diciamo anche insomma con modi moderati come la Clinton, hanno scelto Trump. Forse in Italia piace meno il macio o in realtà poi... No, io invece non credo questo, perché poi non ci dimentichiamo una cosa, che al di là di tutto il Movimento 5 Stelle è un movimento molto carismatico. Cioè cosa sarebbe il Movimento 5 con Stelle Grillo, senza Grillo? Grillo. Ma certo, l'abbiamo visto, quando Grillo si è fatto da parte... di fatto poi con la morte di Casaleggio Grillo è dovuto tornare in campo, perché il movimento si stava sfaldando in lotte intestine. Per cui questo mito che non serve, ma di più dico, il problema non è tanto il fatto dell'uomo solo al comando, ma un leader, un capo, come un capo azienda, così un capo di partito o un capo di governo a maggior ragione, inevitabilmente deve prendere delle decisioni, deve prenderle spesso rapidamente, anche nei confronti dei partner che si ritrova, interni e internazionali. Il punto qual è? È come poi tu eserciti questa leadership, e questa è un'altra storia, cioè le modalità con cui un leader esercita la sua leadership possono essere diverse, possono diverse, con sensibilità diverse e con capacità diverse. Chiaro. Barbara non Fiammeri. Serve urlare insomma, già, per essere un leader e sbattere i pugni insomma, o essere arroganti. Allora Barbara Fiammeri, ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni, conto sempre su di te. Grazie, buona serata intanto a te. Grazie a voi. E poi i vostri messaggi prima di lasciarci brevemente. Claudio dice: a quell'ascoltatrice che vorrebbe Renzi ancora capo di un governo tecnico, dico 6 dei 5 stelle, così lui Renzi si logora i frutti, li incassa Grillo in Company, troppo comodo, ognuno fa le sue ipotesi e dà le sue spiegazioni. Poi c'è invece un ascoltatore che dice: ma Barbara sa che Casaleggio riposa in pace? Parlava naturalmente poi adesso del figlio, no? Che magari in questo momento non ha il carisma del padre, però ne ha preso diciamo il testimone. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo dei temi. Abbiamo parlato molto naturalmente di questa giornata piena di eventi politici, dalla direzione del PD alle dimissioni soprattutto di Renzi, quindi all'apertura ufficiale della crisi di governo, e poi anche alla fiducia votata sulla manovra, sulla legge di bilancio, di cui ci occuperemo tra poco. Per i vostri messaggi, per interagire con Effetto Notte, c'è sempre la pagina Facebook del programma, oppure il 349 238 3899-106-6666. Andrea dice: ma il popolo non aveva votato per il maggioritario, come si fa a parlare di proporzionale? Così scrive anche un altro ascoltatore: proporzionale no, ricordiamo che è stato bocciato dal popolo in un referendum, a volte ritornano, insomma. E poi Adriano dice: ma i 5 Stelle non erano contrari all'Italicum, però adesso invece ritengono che si possa andare a votare con quello una volta che sarà modificato il 24 gennaio dalla Consulta. Vi ricordo le notizie più importanti, visto che c'è stata una pausa. Crisi di governo, il presidente del Consiglio dimissionario Matteo Renzi ha rimesso il suo mandato nelle mani di Mattarella, rimane per gli affari correnti. Da domani le consultazioni. La direzione PD: sono orgoglioso del lavoro fatto, ha detto Renzi, ha rilanciato: o governo con tutti i partiti o voto dopo la Consulta. Grillo attacca: al voto subito con l'Italicum, e anche Salvini dice: o il voto o la minaccia, proteste di piazza. Manovra: via libera del Senato alla fiducia sulla legge di bilancio. Indonesia: un nuovo terremoto devasta l'isola di Sumatra, 100 le vittime. Stati Uniti e Donald Trump, la persona dell'anno secondo Time, un grande onore, commenta lui. Siria: secondo la Russia le truppe fedeli al regime controllano ormai il 70% di Aleppo Est. Il cadavere della donna in una cava, l'ennesimo femminicidio, avviso di garanzia al compagno, la quarantenne è stata uccisa con un colpo di pistola al capo. La prima della scala per la crisi di governo, la politica diserta, l'apertura della stagione con Madame Butterfly, per la quale ci sono stati 14 minuti di applausi, vedo adesso. Ponte dell'Immacolata, quasi 7 milioni di italiani in viaggio, in molti sulle piste da sci. Risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge numero 2611 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 282, votanti 281, maggioranza 141, senatori favorevoli 173, contrari 108, astenuti 0, il Senato approva. Quindi il Senato ha approvato, ha votato la fiducia sulla legge di bilancio, la manovra quindi adesso è legge, una legge da oltre 27 miliardi di euro che appunto ha avuto i 173 voti a favore, contrari 108, come avete sentito, un testo blindato ma con il pensiero già di chi l'ha votato impegnato agli scenari del dopo. Quali sono le misure principali però di questa manovra? Ce le racconta adesso Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. Quindi, se dovessimo dire, no, ci sono veramente tante cose in questa legge di bilancio, ci ricordi le più importanti, Alberto? Beh sì, il catalogo è enorme, effettivamente ci sono novità importanti in tema pensionistico, perché c'è l'introduzione della famosa APE, cioè l'anticipo pensionistico con la flessibilità sul triennio, che interessa un sacco di gente. Effettivamente il meccanismo di ritiro anticipato è legato a una sorta di prestito bancario all'INPS per colmare il mancato contributo che serve per uscire prima, ma insomma è un po' farraginoso, ma penso che possa interessare un sacco di gente obiettivamente. Importanti sono le misure che riguardano l'industria 4.0, con la possibilità dei superammortamenti del 140% fino al 250% se si tratta di beni strumentali legati all'incremento delle cose che riguardano l'innovazione digitale, sostanzialmente è una cosa molto importante per le imprese. Ci sono primi tentativi di abbattimento della pressione fiscale sia sulle piccole imprese, che potranno pagare, l'imprenditore di una piccola impresa potrà pagare l'imposta personale, la cosiddetta IRI, al 24% invece di pagare diverse tasse che in precedenza si pagavano. Lo stesso l'IRES è stata abbattuta al 24%, ma questo riguarda soprattutto le grandi imprese. Ci sono poi altre misure che riguardano sostanzialmente le novità per gli enti locali, perché possono derogare ancora sul patto di stabilità per fare gli investimenti. Ci sono importanti proroghe per il bonus per chi fa investimenti per l'ottimizzazione energetica in casa propria, nei condomini. Insomma, queste sono le notizie, credo, più principali che possano riguardare chi ci ascolta. Poi il catalogo è molto più ampio, davvero, molto più dettagliato. Basta Alberto, pensare, abbi pazienza, dico solo questo, che il nuovo governo, o chi per lui, dovrà attuare ben 60 provvedimenti, dovrà attuare 60 misure attraverso altrettanti provvedimenti di secondo grado, diciamo così, decretazioni ministeriali o anche decreti veri e propri. Alberto, ti sottopongo giusto questo messaggio prima di lasciarci, che non è direttamente connesso alla legge di bilancio, però dice un ascoltatore: se dobbiamo tornare a votare dovremo sorbirci anche dei mesi di bieca campagna elettorale. A tal proposito, cosa ne pensi della proposta di Salvini di una flat tax, immagino che sia una flat tax al 15%, per me è un'idiozia che darebbe molto a chi sta bene a discapito di chi sta meno bene. Non so se hai voglia di rispondere, Alberto. Beh, la flat tax è una cosa molto controversa. Salvini sostiene che si è fatto fare grandi elaborazioni anche da una scuola intera di economisti che giustificano la sua introduzione anche in nome dell'equità fiscale, addirittura di un aumento del gettito. A noi, a dir la verità, saremmo un po' più sprovveduti, ma non ci risulta proprio, risulta che creerebbe un'ampia divaricazione tra contribuenti e non garantirebbe il gettito che purtroppo serve per mandare avanti la macchina dello Stato. Bene, così abbiamo dato anche la risposta a questo ascoltatore. Grazie Alberto Rioli, buon lavoro. Grazie. Ciao Alberto. Ciao. E adesso, prima di lasciarci brevemente per questa pausa, ancora tanti vostri messaggi anche alla pagina Facebook di Effetto Notte. Dino dice: qui è come la Brexit, hanno mandato a casa Renzi senza prevedere e domandarsi che fare dopo. E poi invece Nino: un governo di scopo guidato da una figura istituzionale, ci vorrebbe Renzi che si dà disponibile a fare una veloce legge elettorale insieme ai 5 Stelle per sparigliare. In definitiva credo che in realtà nessuno vuole elezioni ora, qui giocano tutti a poker. E poi Sergio: un Renzi bis, ma stiamo scherzando, subito al voto, il popolo italiano deve decidere, basta governi voluti da nessuno. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Alberto Giordano con voi, anche i vostri messaggi, le vostre interazioni qui a Effetto Notte, pagina Facebook del programma, il 349-238-6666. Massimiliano dice: voto appena la legge elettorale lo consente. Poi Enzo dice: facciamo fare la legge elettorale alla Corte Costituzionale, così non dovrebbero esserci problemi, poi si vota. Infatti deve fare questa valutazione, ci saranno delle modifiche e probabilmente già potrebbe essere pronta, come si diceva, la legge per votare. Ma adesso vi ricordo, se avete acceso la radio non puntualmente alle 21 come dovrebbe essere per ascoltare Effetto Notte, vi ricordo che i titoli principali sono le dimissioni di Renzi, il quale ha detto il voto dopo la pronuncia della Consulta o un governo fatto da tutti i partiti. Quindi la crisi è aperta, le consultazioni di Mattarella iniziano da domani e si chiudono sabato. Grillo attacca e dice: ci vogliono demonizzare, votiamo con l'Italicum Salvini e col Movimento 5 Stelle, dice, o alle urne subito o scendiamo in piazza. E poi per quanto riguarda le borse, reggono bene, Piazza Affari chiude in forte rialzo al 2,1%, trascinata dalla corsa di titoli bancari con in testa MPS e Unicredit, uguale performance positiva anche delle altre borse europee alla vigilia della riunione della BCE. E poi la manovra, la legge di bilancio, ne abbiamo appena parlato, è legge, è stata votata la fiducia con tante misure. Negli Stati Uniti il settimanale Time, prestigioso settimanale, decreta Donald Trump persona dell'anno, gli dedica la copertina, lui dice: per me è un grande onore. Nell'isola di Sumatra, in Indonesia, un nuovo terremoto che devasta l'isola, 100 le vittime, ma potrebbero essere molte di più. E poi alla Scala, l'ombra della crisi di governo su Madame Butterfly, perché non sono stati presenti gli esponenti politici, neanche Mattarella, però ci sono stati 14 minuti di applausi. E ora lo spazio europeo, parliamo dei fondi europei per la ricostruzione post terremoto. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Oggi parliamo del Fondo di Solidarietà. Il Parlamento ha chiesto di escludere le spese relative agli interventi di ricostruzione, compresi quelli che prevedono la partecipazione dei fondi strutturali di investimento europei, dal calcolo del deficit nazionale, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione dopo il terremoto. Il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea permette all'Europa di sostenere finanziariamente uno Stato membro, un paese in via di adesione o una regione in caso di gravi catastrofi naturali. Attraverso il Fondo di Solidarietà, che è finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione, è possibile mobilitare fino a 500 milioni di euro l'anno per integrare le spese pubbliche sostenute dagli Stati membri per gli interventi di emergenza. Fondi che andranno all'Italia per facilitare una rapida ricostruzione dei paesi distrutti durante i terremoti che hanno colpito l'Italia il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre scorsi. Ne parliamo con l'europarlamentare Salvatore Ciccu. Quali sono gli interventi che saranno sostenuti con i fondi di solidarietà? Ma gli interventi sono di due specie. Uno è quello relativo alla ricostruzione rispetto al dramma che le nostre popolazioni nel centro Italia hanno vissuto, e quindi un lavoro di destinazione per quanto riguarda tutto ciò che ha danneggiato, quindi case, quindi aziende, sistema, come dire, culturale e patrimoniale rispetto a quella che è la tradizione e la storia di questi territori. E dall'altra parte, però, attraverso la battaglia che è stata realizzata in Parlamento sui fondi di solidarietà, e dove tramite la mia relazione si sono ottenuti risultati, credo, importanti rispetto alla rapidità, rispetto ai tempi certi, rispetto alla necessità di far sentire al dramma che vive la nostra comunità soprattutto una sensibilità di destinazione, di aiuto immediato, di sostegno immediato. Poi, naturalmente, con la risoluzione da me firmata come riferimento del PPE in Commissione Sviluppo Regionale, si è attivato anche la possibilità che, invece, rispetto al cofinanziamento ai fondi strutturali, cioè a quei fondi che vanno destinati alla ricostruzione e all'investimento per la prevenzione dell'antisismica, si possa realizzare finalmente la possibilità di uno svincolo del patto di stabilità, la cosiddetta flessibilità, naturalmente richiesta solo ed esclusivamente per questa fattispecie. Quindi una parte dei fondi sarà indirizzata anche alla prevenzione? Anche e soprattutto alla prevenzione, tenendo conto di tutto quello che oggi l'innovazione e la ricerca hanno realizzato nel settore. Sono tutte le risorse a disposizione o da qui in avanti potremo pensare di averne altre? No, quelle che sono state destinate sono semplicemente un anticipo. Attraverso la nostra sollecitazione, ma attraverso anche la procedura che il governo italiano ha attivato, la Commissione ha già reso disponibili i primi 30 milioni di euro. Naturalmente è solo l'acconto del 10% rispetto all'intero ammontare, che è l'ammontare molto molto più importante rispetto a questa tranche iniziale. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E per chiudere la prima della scala, l'inaugurazione della stagione del Tempio della Lirica che tutto il mondo ci invidia, con la Badama Butterfly di Puccini diretta da Riccardo Sciagli, un grande evento culturale, un rito immancabile, una vetrina mondana, una specie di red carpet, di passerella per vecchi e nuovi poteri economici, mediatici e anche politici, anche se la politica per la crisi di governo oggi non era presente, come ci conferma la nostra Marta Cagnola, inviata alla Scala. Ciao Marta. Ciao Roberta, sì, davvero molto più evento culturale quest'anno che red carpet, perché pochissimi esponenti politici, ovviamente per il momento particolare che sta vivendo l'Italia con le dimissioni di Matteo Renzi, quindi non c'erano Padoan, non c'era Franceschini, e soprattutto la mancanza del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha assicurato comunque tornerà presto a Milano e magari verrà anche alla Scala. Il palco reale effettivamente era popolato in un po' così singolare: c'erano a fare gli onori di casa il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni e quattro persone che sono state invitate dal comune di Milano, quattro persone di Accumoli e di Arquata, cioè delle zone terremotate. Dalle zone terremotate, quindi poca mondanità, poche mis, così, anzi quasi nessuna mis degna di nota. L'unica veramente intonata alla serata era la moglie dell'ambasciatore giapponese, perché effettivamente, giustamente, portava uno straordinario kimono. Applausi. Visto in tono con Madama Butterfly. Senti, sì, leggevo 14 minuti di applausi, sono spellati le mani praticamente. Eh sì, guarda, c'è sempre qualcuno, giustamente, soprattutto dell'agenzia ANSA, che sta lì con il cronometro e poi dirama il responso ufficiale, e 14 è stato così, effettivamente gli applausi sono stati moltissimi. Marta, quindi ci fai sentire anche un commento di Armando Torno? Sì, l'ho raggiunto appena sono riuscita a carpirgli le sue prime impressioni, e appunto l'abbiamo registrato direttamente al Teatro alla Scala. Siamo di fronte a un'opera, si può dire, nuova, che tra luci e ombre presenta una bellissima scenografia, delle voci affascinanti e una direzione d'orchestra sotto ogni aspetto positiva, anzi più che positiva, è una direzione d'orchestra che poi vedremo nella seconda parte probabilmente trionfare nei momenti più emozionanti. Chiaramente quest'opera è priva delle massime autorità che dovevano essere presenti, era presente solo l'inno nazionale, è stata una serata, diciamo così, una prima che è andata in scena mentre il Presidente del Consiglio rassegnava le dimissioni. C'è anche questo aspetto, da questo punto di vista non c'è stato l'appuntamento. Tuttavia, insomma, Butterfly è tornata alla Scala, la prima volta è stato un terribile fiasco, non per l'opera ma per la clac pagata da Sonzogno, e questa volta c'è stata una crisi di governo. Evidentemente qualcosa, diciamo così, tormenta la povera Cho-Cho San, che comunque sulla scena sta trionfando. Ora vedremo i sentimenti, vedremo le lacrime, vedremo tutto il resto. E del trionfo di questa Madama Butterfly ci ha parlato la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta, buona serata. Ciao Roberta, buona serata a te e agli ascoltatori. Grazie, ci risentiamo alle 22.